Blu Radio. Rock Wave, l'onda del rock. Ok, ci siamo? Perfetto. Una serata molto particolare. Abbiamo in studio Lara Krisch direttamente dagli Stati Uniti. E per, chiaramente, venendo dagli Stati Uniti, cosa ci vuole? Ci vuole Stefano Tainese. Ciao a tutti. Che sarà il padrone di casa di stasera di Rock Wave di oggi, mercoledì. Sì, Laura è qui con noi, sta facendo un tour italiano, penso sia il suo primo. Is it your first time in Italy? It's my first time out of the United States. Oh, really? Allora, la prima volta che esce dagli Stati Uniti. So everything is new for you. Everything everywhere is new for me. Bene, tutto è nuovo, che ci fa piacere, anche perché c'è una maggiore freschezza, secondo me, in queste situazioni. Decisamente. Avremo naturalmente l'opportunità di sentirla cantare dal vivo con la sua chitarra e anche di ascoltarci dei brani estratti dal suo album che si intitola All Is Well. Il titolo completo vedo è Healthy Kiss and Awesome Air and All Is Well. Is that the title, the full title? Yeah, well, really, it goes by All Is Well. So that's a little byline on it, but it's All Is Well. Sì, in realtà il titolo è solamente All Is Well, altrimenti sarebbe in effetti un po' troppo lungo. Io direi di ascoltarci intanto un brano da questo album. Let's start with a song from the record. Okay. And which one are we picking? I don't know. Ah, you don't know? Il nostro tecnico probabilmente è già stato istruito. Sì, Michele sa già tutto, quindi... Okay. Andiamo con la prima canzone dall'album e dopodiché avremo modo di ascoltare la voce di Laura qui dal vivo. Blu Radio. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Ok. Bene, allora abbiamo ascoltato questo primo brano di cui non mi sono fatto neanche dire il titolo. Which song was this? That was I Walk Alone. I Walk Alone, ok. E, essendo la prima volta che la nostra ospite Laura, penso sia obbligatorio chiederle un attimo di raccontarci la sua vita, di lei, insomma, non tutta la vita. La vita artistica. We need to ask you something about you and how you get to play music. Oh, okay. Okay. Very short resume. A very short. Well, I'll tell you. Okay, but then I want to tell you about the "I Walk Alone" song with what I'm doing with that, since you just played that one. So. Sì. Like, allora ci parlerà proprio di questo tramite la canzone "I Walk Alone" che abbiamo appena ascoltato. You want me to tell you that now? That yeah. Part. Okay. If you can. Yes. Well, with "I Walk Alone," I'm making a music video out of it through this trip. And I have in Amsterdam, playing in Amsterdam, and then France, and then here I'm taking some video of each place, walking and singing and different landmarks. And so when I get back, there'll be a music video from this trip with "I Walk Alone." Ah, quindi di questa canzone intanto voleva parlare, appunto, ha deciso di fare un video basandosi sulle riprese che sta realizzando in questo giro per l'Europa, che ha compreso l'Olanda, la Francia e adesso l'Italia, e quindi ha trovato appunto bella l'idea di fare una specie di diario di viaggio che sarà il video della canzone. It's very nice. So are we going to be in the video too? Yes. Quindi rischiamo di wave to my guy doing sì. The video over there. Grazie alle telecamere, rischiamo di essere presenti nel video. See, there's my camera and that's you'll be on that with okay. I Walk Alone. I haven't been to my hairdresser today. Dovevamo pettinarsi, può prepararsi meglio. Ma volevo chiedere appunto, allora quelle le sue canzoni vengono tutte da esperienze di vita. Are your song coming from your life experience? Yes. Yes, all of my songs. Autobiography? Well, yes, or something I've seen. One of the songs on there, it was written for someone's wedding. But whenever I write a song, I sort of internalize it and see where I had the same feelings in my life with that story. So I kind of make it my own, and I tell other people's story at the same time, but from a perspective of feeling it. Si dice che le canzoni vengono in buona parte da sue esperienze di vita. Ad esempio, una delle canzoni è stata scritta per un matrimonio. Il suo obiettivo è quello di interiorizzare le sue esperienze e poi trasmetterle tramite la canzone ad altri. It's not easy to translate when you talk so long, sorry. Okay, I'll talk shorter. Ok, thank you. Sì, è un po' difficile tradurre quando le frasi sono così lunghe. Possiamo cominciare? No, fa un altro pezzo da disco. Ah, ok, allora un'altra canzone dal disco. So we play another song from the record before you start playing. Okay. And I don't know which song is this. I don't know either. I just picked è tutto nelle mani del nostro allora il pezzo è Catch Me If You Can. Okay. Prendimi okay. Se ci riesci. Is this your own experience too? Were you running away? No, this one's more about love and the game of love. Okay, the police is not involved. No, not the police. Sì. Not è the una police. Canzone che parla d'amore, appunto, prendimi se puoi, non ha niente a che vedere con eventuali inseguimenti della polizia, ho voluto chiedere per scrupolo. Allora adesso ce l'ascoltiamo, è Laura Crisci. Catch me if you can. Rescue me, but I sure would enjoy his company. And I'm done weeding through the frogs, time to head out of this bog. Whatever will be, will be. Time to heed that inner voice, find a new way to play. 'Cause chasing after love's like chasing rainbows, mile after mile and nothing's there. But if you sit still for a while, you'll find a treasure in your smile. Is it all just magically appears? I'm gonna let love find me, catch me again. I'm gonna let love find me, catch me again. I'm a bird. Blu Radio. Blu Radio. SMS 346 2320 033. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Ok, prima di continuare la conversazione con Laura, ricordiamo il nostro staff, Michele Tosò in regia, Alberto Pisco che è il nostro direttore artistico, che grazie a lui è venuta Laura a suonare stasera, che fa le fotografie, e soprattutto ringraziamo il manager, che è Stefano Pecorao, che l'ha nascosto, che non vuol farsi vedere, che grazie a lui Laura stasera è venuta a suonare. E c'è qualche riferimento country nella tua musica, Laura? Maurizio is asking if you have inspiration also from country music. Yes, I was in Nashville for about 15 years. Oh, sei stata a Nashville per circa 15 anni. Yeah, that's a long time. Yeah, well, we have that in Asbury Park. There's that influence anyway. Older country music and blues is all a part of the Asbury Park sound. Si dice che comunque l'influenza del country e del blues è ben presente nella musica di Asbury Park, che è da dove lei proviene. È un Asbury Park è un posto importante per gli amanti della musica, perché sappiamo bene, insomma, che è la zona da cui proviene Bruce Springsteen, e non solo, c'è un movimento musicale molto, molto ampio di cui Laura fa parte, e bene o male si conoscono un po' tutti. Si sa che questo esisteva particolarmente all'epoca degli esordi di Springsteen. Volevo chiederle com'è adesso. We know Asbury Park from the old times, the first experience with Bruce and his first band. But now, after 35 years, is very different, or is still going on? I mean, the scene, the local music scene, is still good and alive. It's just come back to life. About the time a few years ago when I came back. not that that has to do with it. It just, when I left because it was dead. Ok, si è detto che adesso la scena si sta rivitalizzando, e lei è tornata anche per questo motivo. Quando se ne andò lo fece anche perché la scena era dead, ha detto proprio morta. Era conclusa praticamente. It's coming back now though. So I'm staying now. I came back and it was nice to see that things are, the boardwalks open again and the Stone Ponies open again and there's a music scene again. Sì, dice che hanno riaperto locali storici come il Boardwalks e il Stone Pony, che dove Springsteen fece proprio i primi passi, e quindi la scena si sta rivitalizzando. Direi che dalla costa est degli Stati Uniti a Nashville c'è proprio un buco anche proprio di mentalità. It's very different to live in the East Coast and in Nashville. Yeah, there's no ocean there. A Nashville non c'è l'oceano. Non c'è l'oceano, but sì. I think that also people's minds are different. Oh yeah, but it's funny. They call it the third coast of Nashville because there's New York, California, and Nashville is the third big music place, music city. I didn't know that. Yeah, they call it the third coast. La chiamano, non sapevo questo, chiamano Nashville la terza costa, perché le due grandi scene musicali sarebbero appunto sulle due coste, ma Nashville notoriamente ne ha una molto molto ricca, e quindi hanno appiccicato questo soprannome. Bene, Do you want to play? Sure. Okay. And sure. What's the title of the song? I will. I'll play one of my favorites. I play it differently live than on the CD. Ah, so okay. Adesso ci suonerà una delle sue canzoni, una di quelle che preferisce, e la suonerà in maniera diversa rispetto a come la si può ascoltare sull'album. It's let me see what number is it. It's number. A 5, numero 5. Until they meet again. Until they meet again. They meet again. Ok, allora è Laura Crisci dal vivo qui negli studi di Blu Radio Veneto. Buon ascolto. South into a cold north wind, the till their paths do cross, and they spin and spin for a while. It's wild, and then it comes to an end until they meet again. Until they meet again. Blu Radio. Dai colore alle tue frequenze. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Ok. Abbiamo sentito questo primo. Take them off when I'm playing, because it's like I'm playing like this. Ok, ok. C'è un piccolo problema tecnico con le cuffie. Dopo le alziamo, chiaramente. Okay. Abbiamo sentito il primo pezzo di Laura Crisci, bellissimo. Possiamo fare questa domanda a Stefano: cosa ne pensa del cantautorato al femminile adesso negli Stati Uniti? Com'è la situazione? Yeah, Maurizio is asking, what do you think about the female singers in the USA at the moment, the songwriters? What do you think the scene is alive? It's good or... In the whole USA or in my part of town? Oh, he's asking about USA. USA. The whole USA. I think it's getting better than ever. I think they're letting the girls in. Dice che meglio che di sempre, stanno lasciando spazio alle ragazze. A questo punto le chiedo chi sono le sue favorite. Which ones do you like more? Which ones do I like more? Well, I like the ones that have been around for a long time, like Bonnie Raitt. Mi piace molto quelle che stanno tenendo duro da tanto tempo, che sono in giro da molto, come Bonnie Raitt. Yeah, let me see, newer ones. Gosh, you know, I'm not really sure. Joni Mitchell, no? Joni Mitchell, I don't know if she's doing anything now. Is she doing stuff now? I'm trying to think of who. Sheryl Crow. A lot of new people that, you know, I'm not really sure who they are, but I'm just hearing a lot more good music coming from. Non si ricorda i nomi, ma ne sente molte di valide in circolazione, mentre di Joni Mitchell si sono un po' perse le tracce, in effetti. Tu sei ancora legato. Sì, sono legato. He's very old, you know. Un po' vecchio. Well, and she's very good. I like her a lot, but I don't know if she's doing anything right now. I know, you know, Carole King, all of those were great. Caro Chi ha fatto un nuovo disco con James Taylor dal vivo. Oh yes, they're out playing again. So there is a lot of good music, old and new, from women now. Questa canzone a me ricordava un po' Gene Clark, come so. Maybe it's just my idea, but this song, the atmosphere and the melody reminds me a little bit of Gene Clark. Really? I don't know. Am I right or? Do you think? I don't know. You don't know, so. I don't know. I don't know. It could be. Birth. È una mia pura impression. It was just my imagination, probably. No. I don't know. When you sang the song I just sang, but yeah. I don't know. I don't think of my songs as much that way. You know, with a certain style, they just come out. Sì, lei chiaramente non pensa alle canzoni in un certo stile, vengono fuori così, ma penso che quando escono siano chiaramente il risultato di quello che lei ha sentito. But of course you must have something inside that you heard and it comes out even if you don't think about it. Well, influences, yeah, and little pieces of things. I like playing with things vocally, you know, like Dylan things and maybe a Tom Petty sound here. Sì, le piace giocare un po' col suono, mettendo dentro un po' di Dylan, un po' di Tom Petty, un po' di Springsteen. Questi chiaramente sono i grandi nomi, quelli che ricorrono sempre. These are big names. Ma mi piacerebbe chiederle un nome di qualche musicista meno conosciuto che lei ama molto. Is there some unknown or less known musician that you like a lot, like you take as an inspiration apart from Dylan and Springsteen? Obvious. My mentor, like his real mentor, sì. Mentor. I went to see her in Amsterdam was Wendy Sheridan, who was very popular there way back. She stopped playing, but Wendy Sheridan. I never Wendy heard Sheridan. This name. She was very popular when I started playing in Asbury Park, and she was popular in Florida, and then she went to Amsterdam and became very popular there. She's a blues singer. I have to write down his name. Wendy Sheridan. Dice che questa Wendy Sheridan era molto conosciuta ad Asbury Park in passato, per, yes. Anche in Florida e anche in Olanda, ad Amsterdam, ha un buon seguito. Quindi è uno dei, un nome, appunto, adesso me lo scrivo, cercheremo magari di farvi ascoltare qualcosa di Wendy Sheridan nelle prossime trasmissioni. We will try to play some songs from Wendy Sheridan in the next shows. Can you play something more? Sure. Yeah. Sure. Andiamo sure. con un'altra canzone, allora. What should we play? Oh, I get it. Okay. You want more sound in your earphones? No, I can hear me now. It's okay. Okay. Bene, abbiamo sistemato il problema con le cuffie. E adesso sistema anche il capotasto sulla chitarra. Oh, sorry. È tutto dal vivo. Si accorda sempre in diretta. Un attimo di pausa per accordare la chitarra, ma è abbastanza, è normale che sia così. The weather? How do you say the weather? Tempo. È tempo, sì. Tempo, yeah. Ah, sì, la chitarra si è un po' scordata a causa dell'umidità della pianura padana. Ma questa è una cosa che tutti i chitarristi della zona conoscono bene e devono conviverci, chiaramente. Quindi siamo diretta a rockway.altavista.org. Potete vedere e sentire Laura che sta sistemando la chitarra proprio in questo momento. Sorry. È anche un bel vedere. È un bel vedere. Di solito abbiamo un maccioni qui in studio. Un bel vedere. I tune because I care. Can you say that? Yeah, si dice chiaramente sta accordando la chitarra perché ci tiene molto. Okay, this should be close enough for folk music. Okay, again there. Okay. Accorda ancora a mano, non ha lo strumentino elettronico che usano ormai quasi tutti. Esattamente, proprio così. Legata alla... There we go. Ok. Is that in tune? Well, I can't really hear this too well in this. All right, we're almost there. There we go. A rainy night in a warm summer heat, you told me all of your secrets. That night on the beach, you wrapped your arms around me when I said please, and with the rain I was cleansed and my heart was released. 'Cause baby, you saved me when I didn't know I needed saving. You gave me a haven, kept me safe and warm. Tell me how to repay you. Maybe I can save you too. Is there something you're missing? Anything at all? We talk for hour on hour, walking hand in hand, slipping and sliding on wet rocks, shoes full of sand. You put your arms around me and my heart skipped a beat, and where I used to run, my heart would not retreat. 'Cause baby, you saved me when I didn't know I needed saving. You gave me a haven, kept me safe and warm. Tell me how to repay you. Maybe I can save you too. Is there something you're missing? Anything at all? Whistle dawn from the night side was a sweet summer sunrise. Sort of love shine in your eyes, or was that the sun? But it up in the blink of that eye, my foundation was shaking. With a warm summer high tide, my pain washed away. 'Cause baby, you saved me when I didn't know I needed saving. You gave me a haven, kept me safe and warm. Tell me how to repay you. Maybe I can save you too. Is there something you're missing? Anything at all? 'Cause baby, you saved me when I didn't know I needed saving. You gave me a haven, keep me safe and warm. Tell me how to repay you. Maybe I can save you too. Is there something you're missing? Anything at all? Anything, baby? Anything at all? Anything, baby? Okay, everybody, sing this with me. You ready? Don't, don't, do, don't, don't, don't, do, don't, don't, don't, do, don't, don't, don't, do, don't, don't, don't, do, don't, don't, don't, do, don't, don't, don't, do, don't, don't. Blu Radio Rock Wave, l'onda del rock. E qui si sentiva decisamente Ashbury Park. Si sentiva molto, sì, effettivamente. This song was much more Ashbury Park, my opinion. Yeah, I'm from there. And sounds a lot like a song made to be played with a band. Yeah. È chiaramente anche un pezzo che si presta molto a essere suonata con una band. E notavo qua che nel disco suonano tantissimi musicisti, e tanto per notare, ci sono molti cognomi italiani. I was reading the names of the band, the musicians playing in your record, and there's a lot of people involved, first of all. Yes. And a lot of them are coming from Italian origin. I mean, Florio, Boccia, Savini, and Felipe Spagnolo is from Spain, and there are others. Cita anche Danny Federici fra i ringraziamenti. Also Danny Federici. Also Federici is an Italian name. Yeah. And by the way, also Bruce Springsteen is half Italian. Really? Yeah. His mother. I didn't know that. His mother was his name is Zirilli. Yeah. Anyway, I think you want to say something about Danny Federici, because it's a very important person for you. Danny Federici, uno dei componenti della Street Band, che è scomparso poco tempo fa, è stato importante. Did he help you or what? Yes, he was. After I was in a band with Vinny Lopez, right, see, after that one, Bruce let his band go then. That was 1990, I think. Yes, sì, lei era in una band con Vinny Lopez, che faceva parte della primissima formazione con cui sono Springsteen, e Springsteen nel 90 sciolse la Street Band. Everybody was crying for that. Yeah. Well, we ended up... We met in a place I was playing. He had heard about me, and he was looking for to put a band together. And he was going to put a band together of his own, and then he heard my music and put one together around me. Federici voleva mettere su una band, essendo, diciamo così, disoccupato. Aveva sentito parlare di Laura, è andata a vederla, e cominciarono appunto a lavorare insieme. Yes, and... So it had. It also had Tico Torres, Bon Jovi's drummer. Yeah, c'era Tico Torres che suonava la batteria con Bon Jovi. Yeah, we were borrowing him. You know, he was just on loan. Era a noleggio, diciamo. Yes. Come he was still in Bon Jovi's band, and I think there were a lot of great players in that band as well. And so it was my original songs, and we were going to do air shows, balloon shows. Danny was a pilot. Balloon shows? So yes. It's, you mean... Yeah, the big, great big balloons with the giant... And you were playing there? The show. The show was... We were doing a show there. But and then at night. And at the end there'd be fireworks. And it was some to have entertainment. It's in Hunterdon County. It's become a big show now. A big concert area. But that was the first one. Sì, lo devo tradurre, è un po' complicato perché andarono a suonare in un posto dove fanno una manifestazione di mongolfiere, se ho ben capito, che finiva poi con delle specie di fuochi d'artificio, e che all'epoca era la prima volta che facevano questa cosa. Adesso ha preso piede e sembra essere molto famosa. La cosa interessante è che in questa band Federici era il band leader, però le canzoni erano di Laura. So you were playing your own songs. My with songs him. And I was fronting the band. Lei era la front, the front of the band, front. And he played you know, accordion and keyboards, and we had a, I guess about, you know, saxophone and guitar, bass, and Bob Berger, and for a little while Bob Bandiera was in the band. Anche Bobby Bandiera stato nella band per un po'. Yeah. A lot of good chitarrista players. Di Salsa Johnny. Anche, grandissimi musicisti, e Federici suonava la fisarmonica, le tastiere. Yeah. Adesso mi viene la curiosità di sapere se c'è qualche registrazione. Did you make any recording of this band? Yes. Yeah, and I actually have a video of the show that I just found. I lost it for 20 years. Appena ritrovato un video che era stato perduto per 20 anni. But you never went into a studio. We did. We did a demo. Hanno fatto un demo. A demo, a four-song demo, and I have that. I just had that mastered. A lot of this, what happened was, the band played that weekend, went very well, very very well, and that was going to be the beginning of the tour. Sì, la band ha suonato in quel weekend di cui parlava, che andò molto bene, doveva essere l'inizio di un tour. Yeah, but then the promoter ran off with the money. Oh, that's an old story. Questa è una storiaccia sentita altre volte. Il promoter della tournée se l'è squagliata con i soldi. So we didn't know what to do because we were just players. He was in charge of everything. So I said, oh, I'm going to Nashville, and he said, oh, I'm going to California, and so we just split around. Sì, allora, know what to do, yeah. In seguito a questo fatto ci fu un momento di depressione, lei decise di andarsene a Nashville e Federici se ne andò in California, così questa bella iniziativa andò male per colpa di un truffatore. Yeah. But we were good friends and we stayed friends. We lost touch during that time. When I came back, I had heard that he had cancer, and I didn't get to see him before he died, which I'm very sorry about. No, si è detto che poi quando è tornata a Shbury Park erano rimasti amici, ma con pochi contatti. Quando lei è tornata a casa, diciamo, ha saputo da amici comuni che lui stava già lottando con il cancro e non ha avuto occasione per rivederlo. Okay, I think you can play another song. Mm. Oh, sure. Okay. Sure, what do we do? Allora, adesso ci suonerà un'altra canzone, sta scegliendo nella scaletta che si è preparato? Portata, che però mi pare non venga poi seguita. Okay. You're not following the track list, right? Right. Should I? No, you can do whatever you want, really. Yeah. Make yourself at home. L'ho detto un po'. Per noi, come sapete, come sanno i nostri ascoltatori, il musicista qui è re, fa quello che vuole, quello che decide, quello che si sente, perché l'idea è di avere di essere fra amici, un'atmosfera semplice. I can hear better this way. Okay. What's the title of the song? It's My Faith. It's My Faith, il mio destino. Laura Crisci dal vivo a Blu Radio Veneto. It's my faith, and it's my journey, but where do I begin? In this place where I am learning to hear that voice within, and I believe love that's in my heart is where it starts. It all begins when you let it in. And it's my path, and I must walk it, though I know not where it goes. But now I see a light before me, and I know I'm not alone, and I believe the love that's in my heart is where it starts. It all begins when you let it Blu Radio. Dai colore alle tue frequenze. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Era una ballad, vero Stefano? Cosa dici? Sicuramente It's My Faith, è il mio destino. Vedo, c'è una cosa che mi ha fatto un po' ridere qui. I laugh when I read the name of the band, il nome della band. Che no, it's not a real band, non è una vera band, immagino. Well, it's kind of the band that you need these days. È il tipo di band che di cui hai bisogno in questi giorni. Mi spiego, la band si chiama The Whoever Shows Up Band, cioè la band si chiama chiunque, chiunque arriva, chiunque appare. Può dare una mano, chiunque, può suonare. Chiunque c'è. But here's the thing is Laura Chrissian, whoever shows up, but whoever shows up is always great. Oh, okay. Great players. These are all world-class players that show up, and that's the fun thing. And when they come in, so you have a big team. Big team of great players. Dice appunto si chiama Laura Crisci e chiunque arriva, però in ogni caso si tratta di gente che sa suonare molto bene, quindi non si corre il rischio ecco, di cascare male. Mi ricorda un po' il concetto dei Willard Grand Conspiracy. There's a band called Willard Grand Conspiracy from Boston, Massachusetts. Oh, yeah. Nei loro vecchi dischi c'era scritto un elenco dei musicisti e poi aggiungevano alla fine: se qualcuno vi dice che ha suonato in questo disco, probabilmente è vero. In the records, there's a long list of musicians, and in the end, they always wrote down: if someone told you that he played in this record, he's probably right. Aveva paura di dimenticare qualche nome. He was afraid to forget someone. Yes, yes, yes. They're all very good, but a number of them, like Gary Oliar, is on tour with Loggins and Messina now. PK Leivengood plays with John Eddy and other players. So they're all, you know, I have to pull them in. Sì, dice, sono musicisti che hanno altri impegni, come Gary Oliar, che vedo è un po' il factotum del disco, suona con Loggins e Messina. Yes. And Gary Oliar is the I don't know, the producer of the record. Engineer, he helped me produce it as well. He has he's wonderful and has a great, great studio. So is his home studio. Oh, it's not a home studio. It's a studio. It's a million-dollar studio that he has, and he has great equipment and he has great skills, abilities. Sì, un musicista molto esperto che l'ha aiutata moltissimo, anche perché appunto questo studio di alto livello che le ha permesso di realizzare un prodotto professionale. Ho l'impressione che il disco sia nato in un periodo abbastanza lungo, visto il numero di persone che ci sono. How long did it take to make the record? 30 years. 30 anni. 30 years in total. It took me that long. This is my first CD. Yeah, sì, right. È il mio primo disco, quindi in realtà mi ci sono voluti 30 anni per farlo. So it took me that long. I have other recordings, but on 2-inch tape and set, nothing, you know, finished. This quality. Yeah, because it wasn't available then. Sì, dice, ha altre registrazioni con i nastri, i vecchi nastri, diciamo, e vari demo e altre cose, ma nessuno è diventato un vero e proprio disco. Probabilmente perché adesso la tecnologia aiuta molto. Now with the technology, it's much easier to make a record. You don't need a record company that gives you advance money and put you in a cage. Right. And I can do the way I want to do, which is very nice. I don't have anybody telling me everything else. Someone was always telling me how to do it. So this is mine, what I've heard in my head. Si dice questo, adesso è possibile fare un disco anche facendolo come lo vuoi tu, come lei l'ha fatto, esattamente come l'aveva in testa. Non c'era nessuno che le diceva cosa avrebbe dovuto fare, e quindi è un prodotto, diciamo, senza compromessi. No compromise on this. There is a time and money factor a little bit, but this is very close to what I've heard in my head all these years, so it's sì, cioè, giusto una qualche sfumatura dovuta a denaro e tempo, che chiaramente sono due fattori che ti legano, però è molto molto vicino a quello che aveva in mente di fare. Ma l'autoprodotta lei? So it's a self-produced record. Yes. Mostly. Ah, okay. Yes. Gary was a great help. But he's a technician, he's not a producer. No, he certainly helped me produce it. He had a lot of good ideas. It was just, let's say 50-50. We worked very well together. Put it that way. We worked very well together. Alla fine non si possono stabilire percentuali o cose. Lavorano molto bene insieme con Gary, e quindi è stato un lavoro di team, di coppia, diciamo così. I can tell you everything was my decision. Alla fine sono sempre le decisioni importanti, diciamo, le decisioni finali erano sono di Laura, e questo è importante. Facciamo sentire un pezzo dal disco adesso. Sì, ok. Stavo pensando. Che traccia? So let's go with another song from the record. We are talking about the record, so it's time to listen something from it. Five? No, I did five. How nine, about nine? Yes, nine. I've heard that in my head for a long time. Nine. You can hear what has been going around in my head for all that time. Allora, la canzone che ha scelto si intitola Eternity, the Sailing Song, la canzone della navigazione a vela. Non so bene come tradurlo. Non è facile. The Sailing, la canzone di chi naviga o di mentre si sta navigando. Va bene, mi sto infilando in un buco nero. Ascoltiamoci la canzone di Laura Crisci qui su Rock Wave. Thank you. goodbye until another time. I feel like a kid again, so innocent and free. Maybe someday we'll sail away, just you and me. Fish are jumping and the wind is right. Oh, how I wish that we could leave tonight and go sailing, sailing. Set a course for the open seas. You were sailing, sailing. Well, the boat is just you and me. Raise the mainsail, hoist the jib. You lead the way. My sailing book. You be the captain, baby, and I'll be the cook. And we'll go sailing, sailing. City cars for the open seas. You were sailing, sailing. Well, the boat is just you and me, you and me. Wind is rising, seas are. Radio. Sono le 23 e 0 minuti. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Allora, abbiamo scoperto perché questa canzone ha due titoli, The Sailing Song, ma il titolo vero e proprio è Eternity. Eternity è il nome di una barca. There e quindi go. La canzone parla del navigare. Non so se è una is a ship where you've been or just no, that's my dream. Ah, il suo sogno avere una barca. So, allora, quando ce l'avrà, when you will have a boat, you will call it Eternity. Am I right? Yes. Okay. Ha già il nome, non ha la barca. You have the name, it's only the boat that's missing. That's right. It'll come at the right time. Prima o poi arriva. È che da Jury Park ci vuole una barca un po' grande, perché non è l'Adriatico. Esattamente. Io ci sono stato anche. Sailing on the Atlantic Ocean, it's not easy like here in our small sea. I mean, you have very big waves. You need a big boat, I think. Big boat. That's in the middle of the song. There's a big storm, and then we survive, and then I become a sailor. Dice che a metà della canzone passano attraverso una tempesta e riescono appunto a uscirne, allora lei si ritiene promossa a marinaio o a capitano, non so. Esattamente. That's right. mi sembra più una tipa da capitano. Sì. I think you're more a captain of the boat than a sailor. I am now. Era leggermente almeno l'inizio ispirata a Nashville, questo pezzo, secondo me. No, io sentivo molto. Tu cosa sentivi? Molto Irlanda. Molto Irlanda, sì, punto folk. There was an Irish flavor in the start of the song. Yes, that's that part's called Banish Misfortune. It's a traditional Celtic. Proprio il pezzo iniziale è un pezzo tradizionale celtico intitolato Banish Misfortune. Yes. Suppongo sia una canzone che parla di it's a sailor songs from Ireland. I guess so. It's a friend of mine plays it. He plays in a Celtic band. He's a minstrel and a juggler. Un po' difficile da tradurre, è un menestrello e un giocoliere in una band celtica. Yeah, called Empty Hats. I capelli vuoti, Empty Hats. And they play that. And Gary, so that's Carl Ash and Gary Oliar playing on that. Ah, Gary Oliar e Carl Ash suonano in questa band, quindi ha voluto prendere questo pezzo e aggiungerlo al. You're going to play? Okay. You always look surprised when I ask you that. Sono un po' sorpresa quando le chiedo se. I forget it's here. It's such a part of me that I don't. It's like, oh. È stupita. non si rende neanche conto di avere la chitarra in mano, perché è talmente una parte del suo corpo che è come, insomma, un altro pezzo. It's like your hands or your feet. It's, yes. Guitar is part of you. Okay. This one is called Winter Song. Questa si intitola Winter Song, la canzone dell'inverno. Va bene lo stesso. Now it's not winter but it's good to hear it. It's è proprio so per hot. Questo che è il momento buono per suonarla. We're on the boat in the taking that now this is another adventure in Questa the una, winter. Un'altra avventura dopo la barca, un'avventura yes. Nell'inverno. I'm going to see. I haven't played this one in a long time, so I'm going to see if I can remember. Okay, dice, è un po' che è parecchio che non la suona, quindi deve fare un attimo di sforzo, di concentrazione per ricordarla. Comunque si intitola Winter Song, sempre da Laura Crisci. Even though I can still travel anywhere, and you can come along, but you best be strong. I'm going far away any day, and the wind is blowing strong. I can hear. Get out of here, you better move along. I'm very strong. Thank you. still on the ground. I best settle down, it's getting late. I'm 28. But the wind is blowing strong. I can hear her singing that winter song. The warning's very clear. You best get out of here if you wanna fly. You gotta try. I wanna fly. Radio. Rock Wave, l'onda del rock. Ok, state sempre ascoltando Rock Wave, l'area Crisci live, assolutamente live. Questo è un pezzo meraviglioso, una piccola filastrocca, possiamo dire così, sull'inverno. Sounded really good. Yeah, but I cannot translate it. I'm sorry. È un po' difficile tradurre filastrocca. Una ballata invernale così. Poteva avere qualcosa di Bruce Coburn. Sì, esattamente. Do you know Bruce Coburn? Canadian musician. And, not personally. Okay, but you know it. There was something in your playing in this song that reminds me of you. It's very old records. Qualcosa di Laura Nyro forse. Ma yeah. Sì, anche qualcosa di Laura Nyro, ma dicevo appunto la parte di chitarra mi ricorda Bruce sì, Coburn, certo. Ma forse è dovuto anche al fatto che Bruce Coburn ha fatto un sacco di canzoni sull'inverno. È vero. He wrote a lot of songs about winter because he's Canadian, you know, that's all they have. Yeah. Well, I made a video of that one, actually it's on YouTube, called A Winter Song. Ah, bene, allora potete cercare su YouTube il video di questa canzone Winter Song di Laura Crisci, un nome che gli americani pronunciano Laura Crisci, right? Laura Crisci. Ma visto appunto che chiaramente è un nome di origine italiana, noi lo pronunciamo anche perché insomma, welcome back in your country. Thank you. C'è una dedica qui che mi fa capire che do you have kids? Due figli che si chiamano Josh e Haley. Mm-hmm. Perché lei qui nel disco dice: Josh e Haley siete i miei capolavori, il mio più grande lavoro, insomma il mio la cosa migliore che ho fatto. So you're very proud of your sons. Son and daughter. Son and daughter. I'm Haley, sorry, Haley is a girl. Is a girl. A volte con i nomi americani non si riesce a capire. It's hard to understand sometimes. Yes. Well, they I actually stopped playing for when I was pregnant with my son, I stopped playing music for until a couple years ago. So about 12 years I stopped playing. So I was going to ask you that. Stavo proprio per chiedere come ha fatto, insomma, a gestire la crescita di due figli, e semplicemente ha smesso di suonare per circa 12 anni. Quindi suppongo che i figli abbiano il più grande abbia so your older son is 12 now. 14. Yes. Anni. Well, they didn't even know I played music. So so you stopped completely? I stopped completely. Yeah. This was in the case for about 7 years. Ah, questo è pazzesco. I figli non sapevano neanche che la madre fosse una musicista, perché la chitarra è stata chiusa nella sua custodia per 7 anni. Yes. How did you do that? I mean, it must be hard? Or? Well, it was... I had 2 children that needed me, and I was the only support for them, and... I did what I needed to do to raise them, and Ah, quindi ha detto sì, aveva due figlie ed era l'unico supporto che avevano, l'unico sostegno che avevano questi figli, e quindi erano diventati chiaramente la sua priorità. Growing two kids by yourself must have been much harder than playing in a band. Yeah, well, ti dico, è molto più dura crescere due figli da sole che suonare in una band. Yeah, well, I couldn't, you know, I had nowhere to put, I was in Nashville then. Era Nashville? No family around either, so I would, and I wanted to raise them, you know, not put them somewhere. Sì, non aveva familiari e voleva crescere questi figli, non voleva lasciarli ad altri, e io avevo pensato che fosse andata a Nashville per ragioni musicali. I was thinking that you were in Nashville because of the music scene, because you were playing all the time. I was, and then questo I era il progetto iniziale. Had a baby, so I was, it was going very well for the first 2 years. È andato molto bene per i primi due anni. Yes, and then I got pregnant and couldn't play anymore for. E dopo appunto è rimasta incinta e non ha più potuto suonare per lungo tempo. Immagino che the children's father is a musician too. No. No, non è un musicista. No. So I came back to New Jersey, and my friends had me come. They'd say, "Come out and play. It'll be fun." They pull you back. They pulled me back in. Okay. And, dice appunto, quando è tornata poi a nella East Coast, i suoi amici l'hanno tirata fuori, diciamo, l'hanno spinta a tornare a suonare. Yes, and I was, and in New Jersey I was very well known from back before I left. Si ricordavano ancora di lei da quando se n'era andata, insomma il suo nome era ancora conosciuto, e questo that helped a lot, I think. Well, it helped, but it was like starting over in my hometown, so it was like a generation. So, you know, Vinny, you know, all the people there, Gene Bosch, the people from the 80s of when it was, you know, all Bruce's people and all of that, they remember me. Ci dice and che appunto the new ones. Tutti i musicisti del giro di Bruce Springsteen si ricordavano di lei, ma poi c'erano anche i nuovi, the new kids around. New kids, they don't know me. Then non la conoscono. And my kids were saying, "You played with who? You did what?" You know, so because I was very established, and then went away. I suoi figli sono rimasti stupiti appunto di sapere con chi aveva suonato in passato, e nonostante avesse una situazione abbastanza consolidata in zona, lei se ne andò appunto dopo quel fatto che ci ha raccontato, ed è stato un bel colpo per i figli. For your kids it must have been big surprise. Yes, you do, and then, you know, so I'm immediately in the newspaper, and, you know, have the CD, and they hear, you know, their friends tell, "Oh, I saw your mom in the newspaper." And you're playing at the Stone Pony and, you know, Convention Hall, and gli amici dicevano ai figli, ma è tua mamma questa che ho trovato, che ho visto sul giornale. Yeah, so they didn't know it all. It was, so I'm being called the prodigal daughter of Asbury Park. È stata chiamata la figliola prodiga di Asbury Park, e penso che i suoi figli siano anche I'm sure they are very proud of their mother. Yeah. Yes, they are. Number one fans. Well, my son, he's 14. So Eminem. He doesn't want to admit it as much, you know. Sì, dice, il figlio ha 14 anni, quindi cerca anche di, insomma, tenere un minimo le distanze. Is that kind of age? It must be independent. Yes. Probabilmente ascolta anche altri tipi di musica. What kind of music does he like most? I think metal. It's well, he's listening to all different things. Ascolta and, molte cose diverse. That's but very good. He's good with hip hop. Hip hop. Hip hop. He's a very good dancer, and he likes buon ballerino. What's that other stuff? That, you know, the death metal. Yeah, kind of like metal. Sta cercando di descrivere. Yeah, I'm usually saying turn that off, turn that down, or. Sì, ogni tanto gli dice sempre di abbassare il volume, quindi suppongo sia death metal. Yes, although sometimes he'll play my own music over and over just to annoy me. Questo è vero, ogni tanto suonano le sue canzoni per farla annoiare. Ah, ho capito. Yeah, and I'm telling him turn that down, because for me it's like working, you know, I'll hear the parts. Anzi, per lei diventa anche una specie di lavoro riascoltare il suo disco, per cui non è più una cosa rilassante. Yes, so he'll torture me with my own music. Mi torturano con la mia stessa musica. Yeah. Well, I think it's very nice torture. Oh, thank you. So let torture us now. Okay. Tortura un po' noi adesso. Okay. I'll do some that or do this one. It's not on the CD. Benissimo. Suona okay. Qualcosa che non è sul yes. CD. So you have to tell us the title. Yes, I do. Well, the title at the moment is Heart of Gold. But il titolo al momento è Heart of Gold. Heart of Gold. It's he's already got a taken. Heart of, he's got. Yeah. Well, è un you titolo know. Titolo che è già stato usato. I know. So I might change. He's got a heart of gold. Let's go with that for now. Così, questa è una, it's a completely new song. Yeah, it's not a Neil Young song. Yeah, okay, but I mean it's not on the record because it's new. No, it's not on the record because I've written about 100 songs. Okay, sì, l'ho chiesto se è una canzone nuova, ha detto che non è nel disco perché ne ha scritte circa un centinaio. I did what I had the right people to play on and what would sound good on the CD, but there are many songs that I have a lot of CDs to make. I have a lot of work to do to get them all. And then I keep writing new ones. Of course. So this could take a long time. C'è stata una accurata selezione delle canzoni anche con l'aiuto degli altri musicisti per selezionare quelle che andavano meglio, diciamo, a creare un prodotto omogeneo, però ne ha tante altre, tanti altri dischi da fare, quindi ci vorrà del tempo, ma lo farà. Okay. Please. Billy was a dreamer, but she didn't care. No schemer, he was true and fair. And after all the lying lovers cheating on her and the others, Billy is a man she can believe in. He's got a heart of gold, he loves her heart and soul, and it will only grow as they go into the promised land. They'll get there. She didn't mind. It's hard to make a dollar when you're sweet and kind. She's held money in her hand, but never held an honest man till Billy. He's a man she can believe in. He's got a heart of gold. He loves her heart and soul, and it will only grow as they go into the fine, and all the money in the world could never touch the finest pearl, 'cause Billy's still a man she can believe in. He's got a heart of gold, he loves her heart and soul, and it will only grow as they go into the promised land. He'll get there. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Ok, very well. Bene, era Heart of Gold, omonima della canzone di Neil Young, ma completamente diversa. was completely different from Neil Young's song, of course. Yes. Ma visto appunto il titolo e il richiamo, volevo chiedere se lei suona canzoni di altri. Anche. Do you play covers in live usually or not? It depends on the show, what it is, but yeah, mainly originals now. I used to play a lot of covers in that situation. That was what you were kind of hired to do. But now I play concerts and original. Lo ha fatto in passato quando ce n'era, diciamo, la necessità, ovvero se c'era una situazione che propendeva più verso brani altrui, ma adesso suona quasi esclusivamente canzoni proprie. So you don't play any cover live? Oh, sure. Ah, okay. Yeah. Can you tell us some title? I'm just curious. Sono solo curioso di sapere i titoli di qualche canzone che le piace suonare dal vivo. E anche come le scegli. And also, how you do you pick up songs? Why you choose one song or not another? To play covers, you mean? Yeah. If I know them, that's a good start. Ok, se le conosco. Well, but you can learn every song you want, I think. I can, but I'm so busy now with everything I'm doing, there's really no time to learn extra ones. Sì, cioè since non, I already non ha tempo know per imparare some. Nuove canzoni, quindi suona quelle vecchie. Yeah, I probably will. There's a couple I have in mind. I like theme songs from shows. Like The Brady Bunch. Let's see. I don't know. You una canzone don't know che non conosco, the Brady Bunch. Yeah, the Brady Bunch from TV shows from. Ah, è da uno spettacolo televisivo, ecco perché non la conosco. It's a show that never came to Italy, I think. Oh, really? The Brady Bunch? La famiglia Brady. Yeah. Yeah. C'era anche da Here's noi un c'era noi sì. Of a lovely lady, right? Who was bringing up three very lovely girls? That one. Sì, I like that one. What's the other one? Come and listen to my story about a man named Jed. do you know that one? There's a whole lot of really, those are silly ones, but I like. Queste sono canzoni così un po' divertenti, un po' leggerine. Yeah. Le piacciono le canzoni theme songs, sarebbero le canzoni delle colonne sonore, diciamo, ma le sigle anche degli spettacoli, degli show televisivi. Flintstones. Leave the Flintstones. Everybody knows them. Everybody loves them. Yes, it's very. I'm surprised. No, but with covers, Dylan was a big influence on me. So I do a lot of Dylan songs. A lot of. Si fa molte canzoni di Dylan. Dylan, Beatles. Beatles. John Prine, Steve Goodman, Leon Redbone, Little Feet. Little Feet. Quale dei Little Feet? Which Little Feet? Which song from Little Feet? It's curious to know. Oh yeah, well, there's some I would like to learn that I don't know, and it's too you know piano. But Willin. You know Willin? Willin, the Little Feet. Okay. Sì, una delle più famose. Mm-hmm. Yeah, that's one of my favorites. And I learned the style of playing, which is a... from my friend Wendy. Oh. So that's sort of from I learned from her, and then that song. So it's one of my favorites. But sì, ha imparato a suonarla dalla sua amica Wendy, quella che ha citato prima, yeah, ed è una delle sue canzoni preferite. E Little Feet ormai. Grandi Little Feet. Yeah. Ok, sto guardando l'ora, sono le 23:25. Vi ricordo, questo è sempre Blu Radio Veneto, state ascoltando Rock Wave, siamo qui in studio con Laura Crisci, la nostra gradita ospite. Abbiamo saputo che il suo tour italiano è terminato, quindi non possiamo annunciare le date, fare i soliti annunci delle date. Do you play something more? You want to play one off the CD? Yeah, okay. We have another one left, right? Sì. Another one set up there. I think it's Your Touch, which is 11. Your Touch, sì. Your Touch. Mm. Ok. Allora ci ascoltiamo questo brano dall'album di Laura Crisci, che vi ricordo si intitola All Is Well. piece of paradise. You are a sweet, sweet vacation. Why, yes, you are very, very nice. And I'll take you anywhere I can get you. I'll meet you any place, anytime. 'Cause every time that I feel your touch, man, you drive me wild. I love the taste of your kisses, smell of your hair. Your smile is perfume to my senses. You laugh and I'm floating on air. And I'll take you anywhere I can get you. I'll meet you any place, anytime. 'Cause every time that I feel your touch, man, you try. Blu Radio, dai colore alle tue frequenze. Blu Radio. Rock Wave, l'onda del rock. Ok. Bene, questa canzone si intitola Your Touch. E, Laura mi diceva che aveva qualcosa da raccontarci sul titolo dell'album. You have something to say about the title of the city, All Is Well. Yes, yes, there... All Is Well vuol dire va tutto bene. Va tutto bene. I'm in a much better place now, more positive, and what I am doing with this whole tour is sort of trying to inspire people by what I'm doing that they can do more with their lives, that they want to. Ok, si dice che lei si sente in un momento particolarmente positivo, e quello che cerca di trasmettere con questo tour, con le sue canzoni, è spingere la gente in una direzione positiva come è lei in questo momento, insomma. So you are trying to express your positivity to people, to live it, you know, to live it, to actually di viverla insieme together. Yeah. If I can do it, you can do it is the thing. Ah, ti dice, sul messaggio è se ce la posso fare io, ce la potete fare anche voi. Fra l'altro, noto adesso che ha addosso lo stesso ha una bellissima giacca addosso, è la stessa che ha sulla foto. I noticed jacket is very very nice and it's the same. Or do you have more than one? I do. And ne ha più di una. I do. This way I don't have to figure out what to wear. This is my rockstar uniform. Ah, la sua uniforme è da rockstar. E beh, qualcuno che magari è in connessione col video lo può anche vedere. Mm-hmm. È un giubbetto positivo. I think it's a positive jacket. I mean, it's like a rainbow. It's the rainbow. C'è un arcobaleno. Non so spiegare. Il giubbetto è nero, ma ha una serie di colori che rappresentano appunto l'arcobaleno. So it's a rainbow coming out from darkness because it's. Ooh, that's nice. But it's like a circus conductor too. They wear the same thing, or like the Sergeant Pepper thing. So it's sì, ricorda un po' anche l'abbigliamento che avevano i Beatles in Sergeant Pepper, cioè una giacca da direttore di circo. Però allo stesso tempo è anche molto rock, perché da dietro è nera, che è l'abbigliamento. But it's also rock clothes because it's basically dark, and usually musicians are dressed in black, most of them. Oh, they do. They dress in black. Yes, right? Because it's easy when you tour. Yeah, oh, is you that don't why? Need to wash. I've heard that. I don't know, but I have a purple one. Più di un musicista mi ha detto che si vestono di nero perché è più comodo quando sei in giro e non hai molte occasioni di cambiare, di passare in una lavanderia. Esatto. Esattamente. Comunque questo è bellissimo perché è molto molto colorato e molto solare. È un abbigliamento che ispira positività. I have a purple one. Neanche uno sembra un po' indiano in alcuni momenti. Cosa dici? Sì, sembra un po'. It's like coming from the Indian, the Native Americans. I mean. Esatto. I don't know, Florida. L'ha trovato in Florida. In Florida. In Florida at a little festival. In un piccolo festival. Anyway, it's very nice. The thing is with it's not just about the music. Like I'm learning. I'm learning Italian. Sta imparando tante cose, non solo riguardo alla musica, ad esempio sta imparando l'italiano. Juggling. Juggling. Giocoliere. Juggling balls. Fare il giocoliere, esatto. What else? Amanetta. Amanetta, but Amanetta, non so, è il suo manager qua che ci ed è una cosa che noi non sappiamo. All different things. So what I want to do is Italian cooking. Oh yes. Well, I grew up with my Italian grandmother, so. Ah, lei è cresciuta con la sua nonna italiana, quindi la cucina italiana è ben. Yes, yes. I grew up with very good food. She was very. Her whole life was. Con cibo molto molto buono per tutta la vita la nonna, appunto la viziata. Me too. La stessa cosa è successa a me, penso un po' a tutti gli italiani, per fortuna. Yeah. But the idea is not to inspire people to travel the world playing music, but to, if they always wanted to paint or to, you know, draw or, you know, I ride a unicycle, they don't have to do that. You know what a unicycle is? Yes. Sì, dice, l'idea non è che la gente vedendola debba necessariamente voler suonare, ma fare quello che amerebbero fare, che può essere appunto anche dipingere o andare sul monociclo, è una cosa che ho sempre trovato molto pericolosa. So so seeing that, they will say, I think today I'll, even if it's take time to read a book they wanted to read, to follow their dreams, what they are. Sì, lei spera che gli altri seguano i loro sogni come, as you did. As I'm come, doing. Come each, lei ha fatto, come sta facendo tutti i giorni. È molto bello, perché questo l'ha anche portata ad esempio a essere qui con noi questa sera. So, this whole thing brought you here tonight with us, so it's it's very very good and very nice for us, and I'm sure also for people who's listening. Let's play. Okay. L'ho detto suoniamo, ma insomma, it's only you to play. Sorry. Well, I wish, you know, yeah, it'd be nice for you. Feel free to clap or sing along, because it's just everyone's being so polite here. Si dice che siamo tutti così tranquilli che potremmo anche applaudire, cioè tenere il ritmo o cantare, ma no, temo che il risultato potrebbe essere we only make it worse, you know. So that's okay. It's fun. It's well, here I got this little. Ah, c'è un. Sì. You can do that if non you so want. Come si chiama l'ovetto musicale. L'ovetto. Sì. I like to have company when I play. I usually have the audience do something with me, like with Catch Me If You Can. Yeah. I'm gonna let love find me, and then in the language they do Catch Me If You Can. What was it in Italian? Prendimi se puoi. Si dice che appunto chiede alla. Prendimi se puoi. Se puoi. Se puoi. Se puoi. Yeah. Prendimi se puoi. So we did that. I did that in each country. Ah sì, in ogni paese chiede alla gente di fare il coro, magari appunto cantando nella lingua locale durante il concerto, che mi sembra una cosa molto molto simpatica, ma qui siamo non in è due il caso, non è solo il caso. But it'll be on YouTube and Facebook. And you know, we are a very cheap chorus. mean, cheaper than you imagine. E adesso ho preso anche l'armonica. Quindi ci sarà un sound un po' diverso per questa canzone, che si intitola. What's the title of the song? This one is also not on the CD. Un altro pezzo che non è nell'album. It's called I'm Done Waiting. I'm Done Waiting. Ho finito di aspettare. I have a recording of this with my band Live Bait with Vinny Lopez, and I'm remastering that. So that one, this one's already done, so I didn't redo it. And will be out sometimes. As soon as I get home. Di questa canzone c'è una registrazione con Winnie Lopez anche, e insomma, quando arriverà a casa in qualche maniera farà in modo che possa essere ascoltata. Poi parleremo anche del discorso di Facebook e del CD, che è molto importante per restare in contatto. Intanto ascoltiamoci questa canzone. Okidoki. I'm gonna find myself another, call my little brother, see what he can do. I'm gonna put out a one-page ad, telling all the boys we're through. So come on, boys, you can put away them toys, 'cause now I'm ready for you. Yeah, I'm done waiting. Well, you walked out that door, and now I'm out there too. Ain't home cooking, I'm out looking for something better than you. I'm gonna pick up the telephone, don't call me 'cause I ain't home. No, I'm out looking for something cooking, you can bet I'm not alone. Yeah, I'm done waiting. Take it, Laura. I'm through wishing for one fish out of the sea. I'm gonna start a brand new life, but don't call me if you got a wife, 'cause I come first now. I don't care how, you must do what's right. Yeah, I'm done waiting. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. L'onda del rock. Un po' di blues non guasta mai, cosa dici? Sì, un bel tiro veramente questo pezzo. I'm done waiting, ho finito di aspettare. Mi sembra di aver capito che è una canzone rivolta a un uomo. It's a song that you play for a man. Yeah. Yeah, there's a lot of those. Yeah, it's a lot like Catch Me If You Can. It's that okay, fini. Sì. I'm not waiting around anymore. Sì, è una canzone che parla appunto della fine di un rapporto, di una chiusura molto molto diretta, very straight in your face. Yeah. Well, that's it. You come to a point, you go, okay. Yeah. Ti dico basta. Sì, I know, basta. Basta. And, è un classico tipo di messaggio che non si può fraintendere. It's not something that you can not understand when it's said like this. Yeah. Yeah, no guessing there, but that's actually someone said recently, and it made a lot of sense to me, that all the songs that the men in Asbury Park, the story in Asbury Park, there's this girl in the car, or the girl, you know, all these girls that they mention. And, sì, dicevo, qualcuno recentemente ha detto una cosa su cui è molto d'accordo, che ad Asbury Park ci sono tante canzoni che parlano in cui la ragazza è la ragazza dentro la macchina. Yeah, but so someone said that they never heard the story of the girl. That story has not been told. Dicono appunto che molte non raccontano mai la storia dalla parte della ragazza o la storia della ragazza, quella non viene mai raccontata. Yes, but now I tell that story. E adesso that's lei, what he said. Lei la I dice. Tell that story, although now I'm driving the car. Adesso è lei quella che guida la macchina. So yeah, that's probably what I do. You know, it's that area, but it's that side of the story. Ti dice questo che lei fa è in quell'area musicalmente e geograficamente parlando, ma lei racconta l'altra faccia della storia, l'altro lato della medaglia. Ho citato prima Facebook, questa è una cosa molto utile per i musicisti, adesso ti permette di stare in contatto con i loro fan, di mantenerli aggiornati, anche di mandare, diciamo, dei link ai nuovi video, a tutta la nuova attività. Quindi anche Laura è su Facebook, basta cercare Laura Crisci. Adesso mi danno anche proprio l'indirizzo, vabbè, sì, Laura Crisci 1. Ah, ok, perché ce n'era una. There was another one? Yes. Oh, really? Allora, yes. Dovete cercare su facebook.com slash, cioè come si dice slash in italiano? Slash. La barretta. La barretta. Laura Crisci 1. E trovate appunto lei con tutti gli aggiornamenti sulla sua attività, e chiaramente poi verranno linkati i nuovi video che fa e le nuove cose. E poi c'è il discorso dell'album, questo disco di cui vi ho fatto ascoltare alcuni estratti e che suoneremo anche poi nelle prossime trasmissioni. Certamente. Qui su Rock Wave, che si intitola All Is Well. È un disco autoprodotto, come si fa ormai normalmente, visto come si comportano le case discografiche. E non ha distribuzione italiana, però c'è la possibilità di riceverlo direttamente dall'Italia, quindi con un come si può dire, un taglio pesante sulle spese di spedizione. Quindi andando sul sito di Laura, che è lauracrisci.com, se non vado errato, lauracrisci.com, c'è la possibilità di acquistare l'album utilizzando i sistemi di pagamento online come PayPal, che sono molto comodi, facili, immediati. Questo è un lato anche negativo, perché a volte capita che uno, dopo un'oretta che è su internet, fa i conti e si accorge di aver comprato 7-8 CD. Parlo per sentito dire, naturalmente. Sempre naturalmente. In realtà questa è un'esperienza personale ripetuta. Però appunto c'è la possibilità di entrare in possesso del disco in questa maniera, in tempi veloci, con la spedizione dall'Italia, quindi a costo ridotto, e questo è importante dirlo. Fra l'altro, il disco ha una confezione cartonata che io amo molto, e invece non mi piacciono quelle in plastica che si rompono sempre, soprattutto quando li porti avanti e indietro dalla radio. Allora, abbiamo ancora un po' di tempo, direi che maybe we have time for two songs, one now and one at the end. What do you think? Okay, well, one of them's really long, so that would might make just one song. Oh. Dice che è una canzone molto lunga. Okay. One's very long, one's very short. Okay, it's you say very long. It's like said Lady of the Lowlands. Or no, probably about let's see. Cinque. 5 minutes, ok, 5 minuti non è poi così lunga. Stavo citando appunto la famosa canzone di Dylan che dura quasi 13 minuti. Sì, esatto. Direi che 5 minutes is perfect. What's the title? Broken Ferris Wheel. Broken Ferris Wheel. Ferris Wheel, it's number... Ah, ok, questa è una canzone... yes, this one's on there. Broken Ferris Wheel è la canzone dell'album. Nell'album dura 5 minuti e 49, vediamo dal vivo se cambia molto. Allora, sempre Laura Crisci qui con noi su Rockwave. Like I'm leaving without warning. have spent our life alone, waiting for you to come home, and dreaming of our golden years of quiet nights and county fairs. I ride a broken Ferris wheel, I close my eyes and I can feel the wind in my hair. As I ride through the air, I make believe that I can fly out to the sun, and then I dive into the sea. And it's almost like you're with me. Ooh, it's almost like you're with me. Radio Rock Wave, l'onda del rock. Ci siamo, benissimo. Sono le 23:55 quasi. Il tempo era lo stesso, sì. 5 minuti a, dopo pochi secondi, uguale al disco come tempo. Chiaramente la versione è ben diversa, più intimista, più sofferta. Penso di immaginare anche quale sarà l'ultima canzone che suona, che è quella che abbiamo già presentato. I think you said the last song is a short one, so it's probably I Know What I Want, right? How'd you know? And usually a ball of flame shoots out of my hand, but I'm not going to do it here. That's on, I don't know, YouTube or Facebook too and things, so. This song. Yeah. And I'm going to go out with a bang, and a ball of flame shoots out of my hand. Si vorrebbe uscire con una... Alfa. Ah, lo fa davvero? Flame. Ah, quando suona dal vivo esce con un trucco. Ma mi pare di capire che ha la passione per la magia o qualcosa del genere. Do you like magicians or circus? Yeah. I love all that. That's the circus, the hat, the unicycle, the juggling. Questo spiega perché nella copertina del disco, oltre ad avere questo giubbetto di cui abbiamo parlato, ha anche un cappello abbastanza strano con due piume. Ricorda un po' un cappello che usava anche Dylan molti anni fa. Bob Dylan used to have a hat like this long time ago. Yeah, now, I used to look like Bob Dylan. I don't think so. I did. Dice che assomigliava a Bob Dylan, ma insomma vi assicuro che... I did. The young, cute Bob Dylan. Ah, il giovane attraente Dylan. Okay, that makes a little bit more sense. Yeah. Well, I used to have the curly brown hair. Yeah, sì, perché Laura, now, awesome Laura hair. Ha i capelli. Awesome hair now. Yes. Ha i capelli. Ah, dice awesome che una volta aveva anche lei i capelli neri. E dice, ma immagino sia uno scherzo perché è bionda e ha i capelli dritti. Insomma, molto lontana da Bob Dylan. Comunque, siamo alla fine di questo appuntamento con Rockwave. Come al solito vi diamo la musica dal vivo, la musica più coinvolgente, più bella secondo noi, e continueremo così almeno. Sì, anche domani. Ecco, allora dillo subito, sì, fa l'annuncio. Anche domani abbiamo una maratona musicale. Partiamo dalle 9 di sera, chiaramente da Rockwave. Ci sarà una presentazione del direttore di Summertime, presenterà i dischi dei Summertime, che è un gruppo gospel famoso a Padova. E poi ci sarà Luca Francioso e i Sei Mani, un progetto di Luca Francioso, chitarra, due chitarre e un basso, tutto dal vivo dalle 22 in poi, con Agostino Spolaure e il sottoscritto. Ci sarò anche domani, quindi dovrete sopportarmi anche domani. Per stasera c'è ancora Laura Crisci. Ah, ecco cosa stava dicendo, perché adesso mi danno qua una foto, appunto, dell'epoca quando suonava con Danny Federici, e in effetti la pettinatura era decisamente diversa. You have a lot of hair. Yes, and as it goes on, it goes shorter and shorter. So you'll see in the video, it starts here and it ends up at my ear. No, it does. It just shrinks. Ah, cioè i capelli si accorciano. Not awesome hair. Va bene. Non awesome. Awesome, no. Una testa impressionante, veramente. Allora, chiudiamo qui questo appuntamento con Rockwell, con Laura Crisci dal vivo. Vi ricordo, seguitela su Laura Crisci 1 su Facebook, ma anche tramite noi, le novità verranno pubblicate anche sulla pagina Facebook. Certo, curata da Alberto, che è qui vicino. Curata dal nostro direttore artistico. You'll be on there. You'll be on Facebook now with my video blog. Thank you. Ecco, saremo anche. Ecco, questa è una cosa che forse è meglio non dire. Comunque, saremo anche noi su Facebook, sul video blog di Laura. Vabbè, ok. E chiudiamo questo appuntamento con l'ultima canzone. I know what I want. So quello che voglio. This is your statement. I mean, I know what I want. I think it's you. Yes, it is. È proprio 100% lei, sa quello che vuole. Ringraziamo naturalmente soprattutto lui, grande Michele Toson, per la solita perfetta regia, e anche se fra poco andrà in ferie anche lui, penso. Sì, in agosto sarà in ferie, però Rockway continua in settembre, chiaramente dal vivo, sempre dal vivo. Bene, Laura Crisci ancora dal vivo nel nostro studio. Thank you very much for being with us. Grazie mille, a manetta. A manetta. A manetta. full throttle. There you go. Buonanotte a tutti, grazie. Buonanotte. Ok. I want a new car. I want to go far. I want to see the world in style. I want to revel in your smile. I want to feel like I'm alive. Wanna get on up and drive. I want the wind upon my face. I want a life that I create that's filled with every last desire. Sets my soul up even higher. I want a fan that flame of fire. And I'm gonna go out with a bang. I know what I want to know. I want it. Cause I wanna feel good, I know what I want, and I know I want it. Cause I wanna feel good, I know what I want, and I know I want it. Cause I wanna feel good, I know what I want, and I know I want it. Cause I wanna feel good. I used to think it was the having of the things, but now I know it is the feeling that I think that having brings. But that feeling's from inside, don't need a car to take that ride. Just make the choice and you've arrived. I'm gonna live now. I'm gonna choose how. I choose to see my world in style. I choose to revel in each smile. I choose to feel like I'm alive. Don't need a car to take that ride. I feel each breath that I can take. I claim the life that I create. It's filled with every last desire. It takes my soul up even higher. I am the flame that is a fire. And I'm gonna go. I know what I want to know, I want it. Cause I wanna feel good, I know what I want, and I know who I want it. Cause I wanna feel good, I know what I want, and I know I want it. Cause I wanna feel good, I know what I want, and I know who I want it. Cause I wanna feel good, hey, hey, hey. Yeah, yeah, yeah. La, la, la. Blu Radio, Rock Wave, l'onda del rock.